Chi vuol la Zingarella, graziosa, corta e bella, signori, eccola qua, signori, eccola qua. Le donne sul balcone sono bene indovinar, i giovani al canzone sono meglio stuzzicar, a vecchi innamorati scaldar po' le cervella, scaldar po' le cervella. Vecchi innamorati. E chi vuol la Zingarella, graziosa, corta e bella, signori, eccola qua, signori, eccola qua. Le donne sul balcone sono ben indovinar, e giovani al canzone sono meglio stuzzicar. Vecchi innamorati, vecchi innamorati, scaldar po' le cervelle. E chi vuol la Zingarella, graziosa, corta e bella, signori, eccola qua, signori, eccola qua, graziosa, corta e bella, graziosa, corta e bella. Signori, eccola qua, signori, signori, signori, eccola qua, signori, signori, signori, eccola qua.